Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Vi consiglio un film, I figli degli uomini di Alfonso Cuarón, il regista del terzo episodio di Harry Potter. Tratto da un romanzo di Philip Dorothy James, I figli degli uomini ci porta in un mondo dove, a causa dell'inquinamento e dell'infertilità, da ben 18 anni non nascono più bambini. Facile immaginare quindi il clima di questo mondo distopico, preda di caos e di violenza, dove ormai l'umanità si è rassegnata alla sua estinzione. Nel nostro mondo, però, le cose vanno diversamente. Da una parte, società che invecchiano sempre di più. I baby boomers, i nati tra gli anni 50 e i primi anni 60, entrano nell'età della pensione, ma nascono sempre meno bambini. Dall'altra, invece, paesi in cui la popolazione cresce rapidamente, a volte troppo rapidamente. Certo, le cose sono cambiate moltissimo. Negli ultimi 200 anni la vita media è praticamente raddoppiata. Si tende in Occidente a mettere su famiglia in età sempre più avanzata. Prassi e tradizioni durate secoli mutano nel giro di pochissimi anni, per cui siamo passati in pochissimo tempo dal modello della famiglia allargata, un crogiolo di zii, cugini, cognati che vivono assieme, lavorano insieme a poca distanza gli uni dagli altri, siamo passati al modello delle famiglie nucleari, papà, mamma, figlio, spesso unico. Proprio in questo ci viene in soccorso la demografia, branca della statistica che si occupa di misurare la popolazione, la sua crescita, l'età media, persino come si modificano gli stili di vita delle persone. Conoscendo i mutamenti, possiamo anticipare i problemi offrendo le giuste soluzioni. Di demografia e di crescita parla anche l'allora Papa Benedetto XVI nella sua Caritas in Veritate. Ascoltiamolo. Dalla Caritas in Veritate di Papa Benedetto XVI. La concezione dei diritti e dei doveri nello sviluppo deve tener conto anche delle problematiche connesse con la crescita demografica. Si tratta di un aspetto molto importante del vero sviluppo, perché concerne i valori irrinunciabili della vita e della famiglia. Considerare l'aumento della popolazione come causa prima del sottosviluppo è scorretto, anche dal punto di vista economico. Basti pensare da una parte all'importante diminuzione della mortalità infantile e al prolungamento della vita media che si registrano nei paesi economicamente sviluppati, dall'altra ai segni di crisi rilevabili nelle società in cui si registra un preoccupante calo della natalità. L'apertura moralmente responsabile alla vita è una ricchezza sociale ed economica. Grandi nazioni hanno potuto uscire dalla miseria anche grazie al grande numero e alle capacità dei loro abitanti. Al contrario, nazioni un tempo floride conoscono ora una fase di incertezza, in qualche caso di declino, proprio a causa della denatalità, problema cruciale per le società di avanzato benessere. La diminuzione delle nascite, talvolta al di sotto del cosiddetto indice di sostituzione, mette in crisi anche i sistemi di assistenza sociale, ne aumenta i costi, contrae l'accantonamento di risparmio e di conseguenza le risorse finanziarie necessarie agli investimenti, riduce la disponibilità di lavoratori qualificati, restringe il bacino dei cervelli a cui attingere per le necessità della nazione. Inoltre, le famiglie di piccola e talvolta piccolissima dimensione corrono il rischio di impoverire le relazioni sociali e di non garantire forme efficaci di solidarietà. Sono situazioni che presentano sintomi di scarsa fiducia nel futuro, come pure di stanchezza morale. È con noi in collegamento telefonico il neo senatore Giampiero Dalla Zuanna, che intervistiamo in forza della sua qualifica di esperto demografo. È stato anche preside della facoltà di statistica dell'Università di Padova. Grazie per aver accettato il nostro invito, senatore. Grazie a voi. Abbiamo appena letto Benedetto XVI, che nella sua Caritas in Veritate descriveva come ricchezza sociale ed economica l'apertura moralmente responsabile alla vita. È d'accordo? Beh, certamente, ovviamente bisogna intendersi sul significato appunto del termine moralmente responsabile, che non riguarda solo, credo, un approccio di tipo individuale, ma anche un approccio, diciamo, che tenga conto della globalità dei discorsi e dei problemi. quindi quali sono questi problemi, insomma, quali sono i problemi principali di cui tener conto? Ma, insomma, quando una persona fa una scelta che riguarda la sua vita, in particolare gli aspetti di per esempio quanti figli avere, oppure alcuni comportamenti da tenere per rilevanti sulla sopravvivenza, no? Che so io, fumare piuttosto che bere, piuttosto che avere un certo tipo di alimentazione, oppure appunto sul primo aspetto, il discorso di aver figli, quanti figli, quando, eccetera, di solito appunto uno fa un ragionamento basato sulle sue prospettive di vita, no? Però in realtà non solo su questo, perché in realtà tiene conto anche della sua vita di relazione. Ecco, io credo che nel formulare queste scelte una persona sia anche importante ragionare in termini generali, cioè capire come le sue scelte possono essere rilevanti in termini sull'andamento generale sia della popolazione sia della società stessa. Ecco, parliamo proprio della società, ci alziamo un attimo. Demograficamente come potremmo descrivere l'Italia di oggi? Ma l'Italia di oggi è una situazione demografica che è cambiata rapidamente nel giro degli ultimi 20 anni, nel senso che da un lato ormai da 30 anni la fecondità, cioè il numero di figli, è molto basso. Nascono circa, come insomma si sa, circa 1,4-1,5 figli per donna, vuol dire che in media 1000 donne hanno 1500 figli, no? Nel corso della loro vita riproduttiva. Naturalmente questo è un numero di figli che non permette alla popolazione di, così, nel lungo andare porta a una diminuzione e a un invecchiamento della popolazione, cioè non è solo un problema di diminuzione ma anche di invecchiamento più che altro. Anche perché nel frattempo la sopravvivenza è aumentata molto rapidamente, pensi che nel giro di 40 anni c'è stato un aumento di 10 anni della vita media, che è tantissimo, specialmente perché questi 10 anni sono quasi tutti concentrati oltre i 50 anni, quindi c'è stato un forte aumento degli anziani. Nello stesso tempo però l'Italia ha avuto un fenomeno che non aveva mai conosciuto nella sua storia, cioè il forte un arrivo importante di persone che vengono dall'esterno del nostro paese, cioè l'Italia non era mai stata un paese di immigrazione fin dai tempi del Medioevo, invece in questi ultimi anni di colpo è diventata un paese di immigrazione, oggi abbiamo più di 4 milioni di stranieri in Italia, c'è stato un forte rallentamento con la crisi eccetera, però insomma i numeri sono talmente importanti da far sì che questi 4 milioni di persone hanno, fra virgolette, sono arrivati a sostituire i bambini che non sono nati negli ultimi 30 anni. Una situazione insomma un po' complessa. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure, qualche volta confondono la bugia e la verità, seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà, sono treni in corsa che nessuno fermerà, no. Le ragazze decidono il destino dei loro amori, i ragazzi si illudono ma non contano un granché, quando ti sorridono è probabile che sia un sì, ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore. Testi delle canzoni sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi, che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha. Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni e noi innamorati che le seguiamo d'acqua giù. Guarda come planano, qualcuna scenderà, ma quando si allontanano è no. E tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire e non telefonare per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, no, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore. Ragazze che sfidano le opinioni della gente, hanno gli occhi limpidi di chi dice la verità, senza compromessi e né mezze misure, sono più sincere le ragazze della nostra età. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti. Parliamone. Siamo in collegamento telefonico con il senatore Giampiero Dalla Zuanna, demografo, e appunto di demografia, di natalità e della situazione della popolazione italiana stiamo parlando. Grazie per essere con noi, senatore. Grazie ancora. Beh, ha parlato prima del crollo della natalità. A cosa è dovuto il crollo della natalità in Italia? Altri paesi occidentali non hanno mostrato le stesse cifre. Allora, in realtà l'Italia condivide la bassissima fecondità con altri paesi dove i legami familiari sono molto forti, come il Giappone, come la Corea del Sud, come la Grecia, come la Spagna, il Portogallo. Però lo condivide anche con altri paesi del centro Europa, come per esempio la Germania. Quindi in realtà la bassa fecondità può essere il punto d'arrivo di andamenti sociali molto diversi. Diciamo che in Italia ciò che prevale probabilmente è la fortissima responsabilità che i genitori hanno rispetto ai figli, nel senso che questa forte responsabilità fa sì che le persone devono pensarci non una, non due, ma 10 volte prima di avere il secondo o il terzo figlio, perché molti ritengono, avendo il secondo o il terzo figlio, per non parlare di quelli di ordine successivo, di penalizzare i figli che sono già nati. Quindi c'è una specie di paradosso che in Italia abbiamo troppa famiglia e troppi pochi figli, no? Cioè, nel senso che c'è questo tipo di andamento. Ecco, e ovviamente a queste cose si assomma poi, cioè, o per certi versi questo tipo di cosa che ho descritto è determinata da un tipo di politiche verso la famiglia nettamente insufficienti. In particolare in Italia abbiamo un welfare state, uno stato sociale fortemente sbilanciato verso i trasferimenti agli anziani, in particolare le pensioni, ma non solo, mentre sono estremamente limitati rispetto ad altri paesi europei i trasferimenti verso le famiglie con figli. Pensi che fino al 1958 gli assegni familiari erano di più rispetto alle pensioni, adesso invece gli assegni familiari sono quasi scomparsi, o per meglio dire sono dati praticamente solo alle famiglie povere o quasi povere, insomma. Ecco, quindi questo è in sintesi molto quello che è successo negli ultimi anni, no? Quindi da un lato un paese con una struttura sociale fortemente orientata alla responsabilità dei genitori verso i figli, d'altro canto una società che è poco amichevole verso le famiglie con figli. Mescolando queste due cose, malgrado gli italiani vogliono abbiano un legame fortissimo con i loro figli, e forse proprio anche per questo di figli ne hanno pochi. questo prima parlava di come sia in qualche modo l'immigrazione a sanare queste falle di popolazione giovane che ci sono non solo in Italia ma anche in Europa. E in che modo lo fa e quali sono le prospettive future anche per gli immigrati che sono arrivati in Europa in questi decenni? Ma insomma il meccanismo è abbastanza semplice, gli immigrati vengono a ricoprire diciamo parti del sistema produttivo, del sistema di lavoro che le persone autoctone, le persone che da tanti anni, le famiglie che da tanti anni vivono nei paesi possono permettersi di non ricoprire più. Se noi andiamo a vedere i lavori che fanno non solo in Italia ma anche in Germania piuttosto che in Inghilterra, in Francia, gli immigrati, a parte alcune elite, la gran parte sono impiegati in lavori pagati poco e che gli italiani o i francesi o i tedeschi possono permettersi di non fare. Ecco, questo fa sì che arrivano molte persone giovani, perché di solito questi lavori sono anche lavori richiesti da persone giovani, e che a loro volta, come si sposano, cercano di aver figli e cercano però di investire anche loro nei loro figli, no? E così facendo abbassano anche la loro fecondità e così rapidamente diventano simili agli autoctoni. È esattamente la stessa cosa che è successa nell'emigrazione dal nord al sud Italia, era successa nell'immigrazione dal Veneto verso il Piemonte e la Lombardia. Credo che ogni famiglia veneta abbia almeno un parente che sta in Piemonte, in Lombardia o cose del genere, no? Cioè questi grandi fenomeni di movimento di popolazione vanno insieme proprio anche a un forte calo della fecondità di chi si sposta. Ecco, quindi in prima battuta l'immigrazione porta a un ringiovanimento della popolazione, ma nel giro di un po' di anni c'è una omologazione del comportamento proprio con questa ansia di mobilità sociale. I demografi parlano in inglese di status anxiety, no? Cioè proprio l'ansietà di raggiungere un certo livello sociale, che è poi la vera molla della migrazione. Non è che la gente migra così, sì. Migra perché vuole dare un futuro migliore a se stessi e ai loro figli. Abbiamo ancora due minuti e più che l'analisi le chiedo la proposta. Quali modalità per investire sulla natalità, quali politiche per la famiglia se sono necessarie e in che modo lo Stato italiano adesso può favorire la nascita? Si parlava anni fa del bonus bebè, quali sono le modalità? Il bonus bebè è una stupidaggine perché non serve nulla a dare 1.000 euro così cash alle persone, sì, uno. Fra l'altro spesso non sono neanche condizionate al fatto che siano spese per i figli, per cui sono cose che servono a poco. Quello che serve è un investimento serio e continuativo, in particolare in politiche di conciliazione per aiutare le coppie ad essere in due che si lavora, perché la prima assicurazione verso i figli è il lavoro di entrambi i genitori. Questo si fa però con politiche non tanto di asili nido, che sono importanti ma sono anche molto costosi, quanto di misure, per esempio babysitter collettive, cose di questo tipo, che possono essere fatte molto rapidamente e dove sono state fatte, penso alla provincia di Trento, hanno avuto un ottimo successo. Ecco, nello stesso tempo è necessario spostare la fiscalità, cioè cambiare la fiscalità redistribuendola a favore delle famiglie con figli, facendo pagare magari un pochino di più a chi di figli non ne ha. Dico proprio un pochino perché non serve cambiare molto, cioè non serve penalizzare troppo chi non ha figli, ma è importante che appunto chi invece ha figli e ha reddito basso non entri nella spirale della povertà, cosa che è successa a molte famiglie nell'ultimo decennio. Quindi da un lato politiche di conciliazione, da un lato politiche di redistribuzione del reddito, e se si liberano risorse, ma qua vedremo il futuro cosa si riuscirà a fare, effettivamente non dico ritornare alla situazione del 1900, degli anni 50, perché è molto difficile, però avvicinare l'Italia agli altri paesi europei nel trasferimento fiscale verso le famiglie con figli. Grazie senatore per essere stato con noi, per averci offerto queste ricette, speriamo che possano essere attuate in qualche modo e favorire la natalità. Posso concludere una cosa, si parlava prima della responsabilità, io credo che uno Stato che interviene in questo modo assume una responsabilità collettiva verso i bambini, no? Che alla fine sono un bene di tutti ed è forse quello a cui si riferiva anche il documento a cui prima voi avete fatto riferimento. E del bene di tutti continueremo a parlare. Grazie per essere stato grazie con noi, senatore. Arrivederci, salve. Arrivederci. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima con Il Bene di Tutti Parliamone. Potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it e sempre sul nostro sito potete riascoltare le puntate già trasmesse. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il Bene di Tutti Parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.